Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Elezioni americane, Biden passa in vantaggio anche in Georgia, ormai siamo sicuri della vittoria, dice, ma occorre pazienza, Trump fa ricorso e chiede i riconteggi. Emergenza Covid, da oggi 4 regioni italiane in lockdown, rispetto a marzo restano aperte le scuole primarie e i bar per l'asporto. Nuovi ristori in arrivo, Conte promette saranno sui conti correnti già in 2 settimane. Calcio Serie A, il Sassuolo in campo per il primo posto in classifica nel match di stasera contro l'Udinese. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, che riapriamo nuovamente con l'evolversi della situazione per quanto riguarda l'esito del voto americano, come sapete ancora appeso agli stati in bilico, ma in Georgia, nel conteggio dei voti postali poco fa, Joe Biden, il candidato democratico, ha superato Donald Trump. Biden dice: non ho più dubbi a questo punto sulla vittoria, ma invita ad avere pazienza. Facciamo il punto con Sergio Nava. Buongiorno. Joe Biden dunque a un passo davvero dal vincere le elezioni presidenziali, con le prossime ore che si riveleranno decisive. Al momento nulla è cambiato nel calcolo più cauto dei grandi elettori, 253 per Biden, 214 per Trump, ma la grande novità della mattinata, lo hai detto tu stesso, riguarda la Georgia, dove Biden ha completato la rimonta passando in testa di appena un migliaio di voti quando mancano solo il 2% delle schede ancora da scrutinare. I 16 elettori georgiani porterebbero Biden a un solo voto dalla presidenza, che dovrebbe poi comunque vincere o in Nevada o in Arizona, dove resta ancora davanti. Trump vincerà con ogni probabilità in North Carolina, mentre prosegue l'appassionante testa a testa in Pennsylvania, dove i due sono divisi da neppure 20.000 voti quando manca il 5% delle preferenze da scrutinare. Insomma, Biden dovrebbe quasi certamente venire dichiarato oggi il prossimo presidente statunitense, ma si apre ora la fase 2, quella della contestazione. Nella notte italiana Trump, visibilmente stanco, arrabbiato e depresso, ha parlato dalla Casa Bianca sostenendo teorie abbastanza improbabili, vale a dire che vincerebbe se venissero conteggiati solo i voti legali, sottintendendo falsamente che quelli inviati via posta non lo siano e che la battaglia sul voto finirà alla Corte Suprema. Anche questo tutto da vedere. Un discorso incendiario che però non ha finora trovato il gradimento dell'establishment repubblicano, imbarazzato, bisogna dirlo, da un presidente che lancia accuse di irregolarità di voto senza produrre prova alcuna, mettendo a rischio le stesse fondamenta democratiche del paese. È tutto. Grazie Sergio Nava, torneremo a parlarne ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, in collegamento con il nostro corrispondente da Washington per gli aggiornamenti. Ora veniamo invece all'emergenza Covid in Italia. Lo sapete, da oggi 4 regioni sono in zona rossa, un lockdown più leggero rispetto a marzo scorso, con le scuole primarie aperte e i bar per l'asporto. Sentiamo. Abbiamo un treno che sta correndo, che abbiamo provato già a fermare. Noi oggi non interveniamo, non stiamo dando schiaffi a nessuno. Non c'è dietro una deliberata volontà di penalizzare aree a discapito di altre. Queste le parole del premier Giuseppe Conte stamani al Food Festival del Corriere della Sera a proposito del nuovo DPCM sulle misure anti-Covid appena entrato in vigore e valido fino al 3 dicembre prossimo. L'Italia da oggi è suddivisa in 3 diverse zone di rischio. In zona rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta. Zona arancione Puglia e Sicilia e in zona gialla il resto del paese. Le misure prevedono il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutto il territorio nazionale, ma per le aree rosse è previsto il lockdown con la chiusura di molte attività e il divieto di spostamenti, oltre al ritorno dell'autocertificazione. Milano, nel primo giorno di lockdown, non è apparsa deserta e spettrale come nella primavera scorsa, perché sono di più le attività rimaste aperte come librerie, negozi di fiori, profumerie, oltre ovviamente a farmacie, alimentari e negozi di tecnologia. Non si è fermato nemmeno il rito della pausa a caffè, perché molti bar hanno scelto di rimanere aperti con la modalità dell'asporto. A Crotone invece, in zona rossa, protesta silenziosa. Nel primo giorno di lockdown i commercianti crotonesi, le cui attività sono tra quelle da tenere chiuse, nonostante i divieti hanno deciso di aprire lo stesso. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restano tuttavia i malumori da parte dei presidenti delle regioni, ma il governo difende le misure dell'ultimo DPCM. La nuova stretta anti-Covid è stata decisa per ridurre la velocità di un treno che sta correndo e che abbiamo già provato a fermare. Dopo le dure critiche delle regioni, il Premier Conte torna a difendere le misure previste dall'ultimo DPCM. Non c'è una volontà di penalizzare aree a scapito di altre, assicura il Presidente del Consiglio. Noi oggi non stiamo dando schiaffi a nessuno. Se non intervenissimo, chiaramente questo treno ci arriva addosso. E sarà peggio poi, le conseguenze economiche sarebbero ben peggiori. Le regioni sono sempre state coinvolte nel nostro lavoro, aggiunge invece il ministro della Salute Speranza. Chiarito questo percorso, voglio continuare testardamente a pensare che ci siano dei limiti che la battaglia politica, anche la più aspra, non debba mai superare, tanto più dentro una grande emergenza sanitaria. Ad intervenire per cercare di smorzare le polemiche è anche il presidente della Conferenza delle Regioni. Bonaccini rilancia l'appello di Mattarella e invita tutti ad abbassare i toni del confronto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito dei contrasti tra il governo e le regioni, è notizia di poco fa che il TAR della Puglia ha accolto la richiesta di sospensione dell'ordinanza del presidente della regione Emiliano, che da fine ottobre aveva disposto la chiusura di tutte le scuole ad esclusione di quelle dell'infanzia. Quindi a questo punto, essendo stata accolta la sospensiva, l'automatismo dovrebbe essere la riapertura quanto prima delle scuole in Puglia. E adesso invece la parte economica. Prima di parlare del decreto ristori, che secondo il Presidente del Consiglio Conte sarà già in Consiglio dei Ministri stasera, il bis, ristori bis, con versamenti sui conti correnti nel giro di 2 settimane, andiamo alla manifestazione nazionale dei tassisti. Adesione quasi totale per lo sciopero indetto dalle 6 alle 22 da numerose categorie sindacali dei tassisti. A Roma la manifestazione, dicevamo, principale davanti al Ministero dell'Economia. Alessandro Arona era lì e ha raccolto alcune delle voci dei rappresentanti sindacali. Sentiamole. La situazione dei tassisti a Napoli, un po' come tutto il resto d'Italia, è drammatica. Abbiamo incassi ridotti del circa l'80-90% con delle soste ai posteggi lunghissimi. Si tratta anche di una, solo due corse al giorno. Chiediamo interventi strutturali al governo, visto che la crisi sarà lunga, anzi lunghissima. Tra parte delle attività che ormai lavorano in smart working, il turismo, che anche su Genova ha un buon peso, è praticamente fermo, è tutto fermo. Il settore è sostanzialmente abbandonato, un po' diciamo come tutta la piccola imprenditoria italiana. Per darvi un numero, considerate che da marzo ad oggi abbiamo mediamente ricevuto un importo di circa 275 euro a impresa. Abbiamo bisogno di aiuti ben più forti. Siamo qui perché il governo continua a trattarci da lavoratori di serie B. E ora, dicevamo, il decreto ristori bis, via libera atteso per stasera in Consiglio dei Ministri. È tutto pronto. Oggi in Consiglio dei Ministri entrano le misure del decreto Ristori Bis, annuncia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In arrivo ci sono i nuovi aiuti per commercianti, ristoratori, partite IVA, costretti a chiudere dal nuovo DPCM. I rimborsi saranno modulati in base al colore delle zone sottoposte alle nuove restrizioni decise dal governo per contrastare l'avanzata della seconda ondata Covid. Nel decreto Ristori Bis, dice Conte, ci sarà un fondo ad hoc per mettere risorse in caso di variazioni tra zone gialle, arancioni e rosse. Previsto anche il credito d'imposta al 60% sugli affitti di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Ci sarà inoltre lo stop di contributi previdenziali per i dipendenti e il rinvio dei versamenti per chi ha gli indici sintetici di affidabilità. Gli aiuti, ripete Conte, arriveranno entro un paio di settimane direttamente sul conto corrente accreditati dall'Agenzia delle Entrate. E per le famiglie dovrebbero essere rifinanziati il bonus asilo e i congedi parentali per chi ha i figli a casa in quarantena o per la scuola chiusa e non può ricorrere allo smart working. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora cambiamo pagina, parliamo della cronaca. Continuano gli sbarchi di migranti verso la Sicilia a piccoli barchini, ma i numeri ormai cominciano a essere importanti sull'isola di Lampedusa, e con l'allerta antiterrorismo da una parte e le norme anti-Covid dall'altra, la gestione degli arrivi è sempre più complicata. 24 sbarchi in 3 giorni. A Lampedusa gli arrivi sono continui nonostante siamo distratti da altri temi. Ieri un barcone con 81 migranti è stato bloccato al largo dell'isola da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Poco dopo un gommone di 7 metri con 17 tunisini a bordo, tra cui una donna, è riuscito ad arrivare direttamente al molo commerciale. La presenza nell'hotspot dell'isola è salita a 1.271 persone quando la capienza sarebbe di 190. Ma non arrivano più solo barchini e piccoli gommoni, ma vere e proprie imbarcazioni, come spiega Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa. Continuano ad esserci i barchini che arrivano, ma contemporaneamente ci sono alcune grosse imbarcazioni che portano 80, 100, 120 persone. Sta cambiando la fisionomia degli sbarchi. Diminuisce la flotta tunisina e aumenta quella libica. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora con la cronaca torniamo all'estero, perché sono 63 i morti accertati, centinaia i feriti per il passaggio sull'America centrale dell'uragano Eta, che ora minaccia Cuba e Florida. El huracán Eta ha causado que torrentes se desborden, provocando inundaciones, evacuaciones y alertas en varias regiones. Inundaciones, frane, strade come fiumi di fango, evacuaciones. È la fotografia dell'America centrale attraversata dall'uragano Eta, che, declassato in tempesta tropicale, sta però per rafforzarsi sul Mar dei Caraibi, tanto da spaventare Cuba e perfino la Florida. Ieri le frane provocate dalla tempesta hanno ucciso più di 50 persone nei villaggi indigeni nel nord Guatemala, ma Eta ha provocato 5 vittime anche a Panama, 4 in Honduras, 2 sia in Costa Rica che in Nicaragua, centinaia i feriti. Secondo il centro di monitoraggio uragani degli Stati Uniti, le forti piogge portate da Eta causeranno entro lunedì mattina inondazioni improvvise potenzialmente catastrofiche. La tempesta acquisterà potenza sulle calde acque del Mar dei Caraibi, arrivando a minacciare nel fine settimana parte del Messico e quindi Cuba, la Giamaica, le isole Cayman e il sud della Florida. Nel già colpito Guatemala sono stati aperti rifugi per accogliere gli evacuati, mentre in Honduras la valle di San Pedro Sula, la capitale industriale del paese, è completamente inondata. Migliaia gli sfollati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:11 minuti, siamo alla pagina sportiva. Torna la Serie A di calcio con Sassuolo Udinese che può valere addirittura il primo posto momentaneo per il Sassuolo in classifica. Carlo Alessio, ciao a tutti. Sì, hai detto bene, perché il Sassuolo incredibile di questo inizio di stagione. Se vince con l'Udinese, partita in cui è favorito, per almeno facciamo un paio di giorni è in testa alla classifica, aspettando che poi si incrocino tutte le altre, compreso il Milan, che ieri sera ha trovato la prima sconfitta dopo un periodo lunghissimo. Non aveva mai perso dopo il lockdown, quindi da marzo, ultima sconfitta. Ieri abbastanza indolore per la classifica, il girone di Europa League, non per le proporzioni, perché ha perso 3-0 in casa con il Lille, squadra molto veloce che ha evidenziato limiti del Milan da verificare in una partita non banale come quella che aspetti i rossoneri contro il Verona. Poi ieri Roma facile 5-0, il Napoli non bene ma vittorioso in rimonta contro l'Orieca, che peraltro era decimato dalle assenze per Covid. Quindi questo è il piano. Nel weekend aspettiamo di capire se Valentino Rossi, su un altro fronte, sarà della gara a Valencia. Si corre domenica, ieri per lui dopo lungo periodo primo tampone positivo, certo. Esatto, adesso si attende 48 ore, poi altro tampone, poi vediamo se corre domenica. Grazie Carlo. Ciao, grazie Carlo Genta, appuntamento con lo sport dopo il GR delle 14. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, poi torneremo parlando ancora di America, cosa succede sul fronte dei conteggi, cosa succede sul fronte dei ricorsi annunciati da Trump e cosa succede anche sul fronte delle proteste di piazza da parte dei sostenitori trumpiani, delusi per l'andamento del conteggio finale del voto, soprattutto quello per posta. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Elezioni americane, Biden passa in vantaggio in Georgia, ormai siamo sicuri della vittoria, dice, occorre pazienza, Trump fa ricorso e chiede riconteggi. Emergenza Covid, in 4 regioni scatta il lockdown, rispetto a marzo restano aperte le scuole primarie, i bar per l'asporto, nuovi ristori in arrivo, promette Conte sui conti correnti in 2 settimane. Nelle regioni rosse però da oggi restano a casa i ragazzi di seconda e terza media con meno di 14 anni. Chi si occuperà di loro? Ne parliamo tra poco. Eccoci qua, 13:17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno e come anticipato poco fa torniamo in America, lo facciamo con il corrispondente del Sole 24 Ore, Riccardo Barlam. Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Ben ritrovato. Allora, la cronaca di questo lungo, interminabile esito del voto americano si divide, diciamo, possiamo dividerla in tre strade. La prima è l'avanzamento del conteggio dei voti che sta premiando sempre di più Biden, che si intreccia con le altre due strade, perché a mano che ci si avvicina a questo risultato c'è il filone dei ricorsi che sta annunciando il presidente uscente Trump e anche poi quello delle proteste di piazza, a parte i sostenitori trumpiani che si sono già fatti sentire e su cui sentiremo tra poco un servizio ad hoc. Per quanto riguarda conteggio e ricorsi, la cronaca di queste ultime ore, Riccardo. Allora, Biden nelle prossime ore, dalle proiezioni, dovrebbe superare i 270 grandi elettori che ci vogliono per vincere la Casa Bianca. Al momento ne ha 253. Ci sono tre stati dove lui ha quasi vinto, diciamo, e soprattutto la Georgia, dove è passato in vantaggio con il conteggio dei voti postali. Al momento sono stati scrutinati il 98% dei voti. La Georgia dà 16 grandi elettori e Biden appunto ha il 49,4%, con al momento 150 voti in più rispetto a Trump, che è la stessa percentuale, però i voti postali dovrebbero favorire appunto il successo di Biden quando mancano appunto il 2% dei voti da scrutinare. Lo stesso succede in Arizona, in Nevada. L'Arizona dà 11 grandi elettori e in Nevada 6 grandi elettori, sono due stati che erano dei repubblicani, e in Arizona siamo al 90% dei voti scrutinati. E Biden è molto più avanti, lì ha il 50% contro il 48% di Trump. Lo stesso in Nevada, dove c'è meno vantaggio di Biden, però è sempre avanti. E va registrato anche un altro fatto, che in Pennsylvania, dove siamo al 95% dei voti scrutinati, la Pennsylvania dà 20 grandi elettori, stanno cominciando a contare i voti postali dell'area di Filadelfia e quindi a favore di Biden. Di Biden, e qui in Pennsylvania i voti arriveranno fino a oggi, possono tornare fino a tutto venerdì, possono tornare le schede postali, e quindi credo che domani si sarà il voto o questa notte di questo stato importante, ma insomma tutto sta da Biden e lanciatissimo in questo momento. Questo è il quadro molto preciso, esatto. Prima di arrivare a Trump, Riccardo, che hai descritto, vorrei solo chiederti di precisare una cosa, perché magari qualcuno ascoltando pensa i voti che arrivano per Biden, voti postali, sono favorevoli a Biden, i voti di Filadelfia sono favorevoli a Biden. Non è che noi sappiamo in anticipo che quei voti sono favorevoli a Biden perché abbiamo la sfera di cristallo o perché, e questo potrebbe alimentare anche il sospetto di brogli, eccetera eccetera. Sono ragionamenti che si fanno. Perché si fanno? Perché Filadelfia è una zona favorevole a Biden e quindi si immagina che quei voti siano favorevoli a lui. Per quanto riguarda i voti postali, l'abbiamo detto più volte, c'è una propensione maggiore dei democratici, giusto, ad utilizzarlo? Sì, proprio così, perché loro hanno chiesto da mesi di votare in anticipo per il Covid, per il coronavirus, mentre i repubblicani che appunto sono meno attenti al distanziamento, alle mascherine, sono andati tutti in gran parte ai seggi. E Trump, nelle sue, diciamo, denunce senza prove, sì, di frodi, dice appunto, parla dei voti validi come i voti dati nei seggi fisicamente, dei voti illegali definisce sono questi voti anticipati, che in realtà non sono illegali perché la legge americana lo prevede. E tant'è, va registrato questo, che l'OSCE, che è questa organizzazione internazionale che segue tutte le elezioni nel mondo, certo, di solito ha un ruolo importante in Africa, in questi paesi ex sovietici, dove ci sono a volte appunto presidenti che, sì, si arroccano e non vanno via, ha escluso qualsiasi interferenza e qualsiasi manipolazione del voto. Ecco, oltre è all'OSCE ci sono... Sì, ci sono centinaia di associazioni di diritti civili che stanno monitorando il voto americano. Questo è importante. E va detto anche questo, che Fox News, per chiarire, che la rete più seguita per le elezioni, è di solito spostata su posizioni conservatrici, questa volta non sta seguendo le denunce di frodi di Trump e dei suoi collaboratori, quindi sembra quasi che lo abbiano già in qualche modo scaricato. Biden ha invitato i suoi, che stanno appunto, come ricordato, scendendo in piazza a protezione del voto, a non, diciamo, a non far casino, stare tranquilli, ad avere pazienza. Assolutamente. E quindi vediamo, speriamo che non succeda niente di strano. Faccio sentire tra poco, io ringrazio Riccardo Barlam da Washington, vi faccio sentire tra poco un servizio di Maria Luisa Pezzali proprio dedicato alle proteste che invece stanno avvenendo ancora in forma gestibile da parte degli elettori trampiani delusi da queste code di riconteggio. Importante comunque la conclusione del collegamento del corrispondente dall'America del Sole 24 Ore, che ricordava come istituti indipendenti come l'OSCE si stanno esprimendo sul fatto che le elezioni siano svolte regolarmente. Questo è molto importante. Poi ci saranno tutte le strade dei conteggi, riconteggi, dei ricorsi che Trump può fare giustamente dal punto di vista, diciamo, delle possibilità giuridiche concesse. Sentiamo il servizio sulle proteste. È accompagnato da proteste e disordini in tutto il paese lo spoglio all'ultimo voto delle elezioni americane. Schierata la Guardia Nazionale soprattutto negli stati chiave ai quali resta appeso il risultato, dove sale la tensione nelle piazze. Centinaia le persone arrestate nella notte, alcune armate. In Pennsylvania l'FBI ha bloccato due persone all'esterno del Convention Center di Philadelphia, dove è in corso il conteggio dei voti per un presunto attacco terroristico. A Harrisburg, Capitol Hill, sede del governo della Pennsylvania, una barricata della polizia divide i sostenitori di Trump e Biden che aspettano il risultato dello spoglio. Al grido di fermate il conteggio e contate ogni voto, proteste dei sostenitori di Trump si sono registrate davanti ai seggi a Phoenix, Detroit e Las Vegas. Cortei di segno opposto a Los Angeles, Seattle, Houston e New York, dove migliaia di dimostranti anti-Trump si sono radunati a Washington Square Park. Un paese diviso in due, mai così prima d'ora dopo un Election Day. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Minuti. Adesso parliamo di scuola, perché con il nuovo DPCM in vigore da oggi, solo didattica a distanza per le scuole superiori, ma anche per seconda e terza media nelle regioni rosse. E quindi nelle quattro regioni, Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta, con una questione relativa tra l'altro ai ragazzi che hanno meno di 14 anni e che resteranno a casa da soli. Una questione, diciamo, che si apre a questo punto. Ne parliamo con Giovanni Manfredi, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Jacopo Barozzi di Milano. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi la ministra Azzolina ha detto la scuola è tornata al centro del dibattito, abbiamo investito tanto, stiamo cercando di evitare che sia ancora una volta la Cenerentola del paese, ha detto così, perché effettivamente la differenza tra il lockdown di marzo e quello di adesso è che adesso le scuole sono aperte, le primarie sicuramente, almeno le medie anche nelle zone gialle e arancioni, c'è questo problema invece nelle zone rosse. Ora, se questo sia vero, se effettivamente l'Italia ha recuperato attenzione alla scuola rispetto alla prima fase, o seppure in confronto col resto d'Europa, dove le scuole non sono state chiuse in nessun ordine e grado, quasi da nessuna parte, ognuno poi, diciamo, lo giudica così anche soggettivamente, è anche un po' un tema di sensibilità. Lei avrà anche la sua opinione, immagino, e la potrà esprimere. Le chiedo intanto com'è andata oggi con le seconde e le terze a casa. È andata come doveva andare, nel senso che noi già da qualche giorno avevamo saputo che questo provvedimento era nell'aria, quindi avevamo già cominciato ad attrezzarci e nel complesso direi è andata bene. Abbiamo già cominciato con la nostra didattica a distanza e naturalmente dal mio punto di vista, ma su questo siamo sì, tutti d'accordo all'interno dell'istituto, genitori compresi, la cosa, le indicazioni vanno rispettate, quindi Certo, questo è naturale. Ma si era lavorato tanto, no, per cercare di far stare i ragazzi in presenza. Io non so, anche nella sua scuola, se avevate fatto dei lavori, se avevate fatto degli aggiustamenti, e anche come stava andando l'inizio dell'anno. Io parlo in particolare per l'aspetto della sua scuola media. Come era iniziato l'anno? Direi che è iniziato molto bene, da un certo punto di vista anche molto meglio delle previsioni, nel senso che siamo riusciti a riprendere l'attività in presenza in maniera assolutamente, l'attività didattica in maniera assolutamente normale, con qualche piccola polemica, ma devo dire niente di importante, perché noi abbiamo cercato, in particolare nel mio istituto, di essere anche un po' più rigorosi rispetto alle prescrizioni, diciamo, nazionali, per cui spesso e volentieri mascherina indossata anche al posto, che è una questione che ha fatto infuriare alcuni genitori, ha creato un pochettino di tensioni, ma che secondo noi era importante proprio per dare il senso di un'attenzione, di una maggiore sicurezza, e che comunque doveva essere anche un po' lo strumento per evitare di lasciare a casa intere classi, assolutamente, nell'attimo stesso in cui ci fosse stato il minimo problema. Avete avuto casi, immagino, focolai, classi chiuse? Focolai, diciamo che abbiamo visto un aumento, anche noi abbiamo toccato con mano questo aumento esponenziale negli ultimi giorni, sì. Perché fino alla metà di ottobre è sempre andato tutto molto bene, non abbiamo avuto casi, abbiamo avuto qualche contatto di contatto, come lo chiamano, però è andato sempre tutto bene. Dalla metà di ottobre in poi, piano piano, abbiamo avuto i primi casi di tamponi positivi fra gli studenti, per cui abbiamo cominciato a dover mettere in quarantena le classi. In questo momento, prima della chiusura delle seconde e terze della scuola secondaria, avevamo già quattro classi alla scuola secondaria, in questo momento abbiamo anche quattro classi alla scuola primaria, e anche una sezione di scuola dell'infanzia, però la sezione di scuola dell'infanzia per un'altra situazione non legata a un caso Covid positivo fra gli studenti, ma fra il personale. Io credo che sarebbe interessante che i virologi, gli esperti, i medici che si occupano di Covid cercassero, ci saranno anche degli studi che verranno fatti, gli epidemiologi, di raccontarci che cosa è successo dai primi di ottobre effettivamente, perché c'è stata questa impennata, perché a sentire lei capisco che anche nella sua scuola, ma questo lo abbiamo sentito anche altrove, anche nelle scuole, c'è stato un aumento, così come c'è stato nel resto della popolazione. Capire se effettivamente la riapertura delle scuole, che era avvenuta alla metà di settembre, sia stata, con due o tre settimane di ritardo, il fattore scatenante, oppure, come sostengono per esempio alcuni epidemiologi in Germania, sia legato all'abbassamento delle temperature o delle ore di luce, sarebbe importante saperlo. Cioè, sarebbe anche un tema su cui sarebbe interessante sentire l'opinione degli esperti, anziché continuare a parlare di mascherina sì, mascherina no, per esempio. Però le voglio chiedere, preside Manfredi, il tema dei dodicenni e tredicenni, che non tutti, insomma, hanno i genitori che lavorano in smart working, perché chi è figlio di un magazziniere o di un infermiere o di uno che lavora in uno dei negozi che sono aperti, eccetera, eccetera, e che non può fare smart working, che fa? Rimane da solo? Non si può, cos'è? Abbandono di minore? Che succede? Questo è un problema molto serio, è quello che ci angustia di più, anche perché alcuni ragazzi hanno, pur avendo i genitori in smart working, hanno genitori che in quel momento non possono occuparsi dei figli perché stanno lavorando, quindi non è solo il problema di chi ha il genitore magazziniere. Diciamo che il problema principale però è proprio quello degli studenti, che oltre ad avere un genitore che non è presente in casa, magari un genitore che fa orari di lavoro molto prolungati, che torna tardi la sera, che non può comunque dare una mano nello studio. Questi ragazzini rischiano veramente di trovarsi un po' abbandonati a se stessi, quindi il lavoro che stiamo facendo in questo momento è, da un lato, fare in modo di raggiungere tutti anche da un punto di vista tecnologico, quindi mettere in atto aiuti tipo il computer incomodato d'uso, la scheda telefonica incomodato d'uso e via dicendo, ma anche e soprattutto di studiare dei provvedimenti, delle modalità per intervenire proprio su questi studenti con le maggiori fragilità. E da questo punto di vista probabilmente ci avvarremo di un punto del decreto che sostanzialmente fa riferimento agli studenti BES, quelli cosiddetti bisogni educativi speciali, che potrebbero essere anche riportati a scuola. Questo sarebbe un punto molto importante. Confermo anche dai messaggi che stanno arrivando al 3492386666. I ragazzi con disabilità sono completamente ignorati dalla scuola in questi momenti, specialmente i non udenti. Questo sarebbe molto importante. Se si svuotano le scuole e si creano degli ambienti accettabili, con rarefazione, accoglienti, con meno problemi anche sui mezzi di trasporto, forse riammettere a scuola questi casi qua diventa davvero un elemento importante. Io la ringrazio Giovanni Manfredi per essere stato con noi, staremo a vedere. Adesso alle 13.32 minuti la linea alle informazioni di borsa, poi torniamo tra pochissimo. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Elezioni americane, Biden passa in vantaggio anche in Georgia. Ormai siamo sicuri della vittoria, dice Trump, però fa ricorso e chiede i riconteggi. Emergenza Covid. Da oggi 4 regioni sono in lockdown. Rispetto a marzo restano aperte le scuole primarie e i bar per l'asporto. Nuovi ristori in arrivo, promette Conte, saranno sui conti correnti in 2 settimane. Calcio Serie A, il Sassuolo in campo per il primo posto in classifica nel match di stasera contro l'Udinese. Cresce 38 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Diversi messaggi sia sulle elezioni americane, con il solito polarizzazione tra trampiani e antitrampiani, anche sulla scuola. Una precisazione, perché un ascoltatore dice: mio padre non mi ha mai aiutato nello studio, puntini puntini, ma qua non è la questione di, parliamo dei dodicenni e tredicenni di seconda e terza media che nelle regioni rosse rimangono a casa, con previsione di genitori non necessariamente smart working come nella prima ondata, perché sono molte di più le attività adesso aperte. Non è questione di aiutare i ragazzi a fare lo studio, ci mancherebbe, a 12 anni uno deve essere autonomo, questo almeno è il mio punto di vista. È una questione che per la legge italiana il minore di 14 anni non dovrebbe essere da solo, non in certe condizioni, si incorre anche in quel rischio. E poi un conto è stare, come un altro ascoltatore dice, ma il pomeriggio già questi ragazzi sono soli perché i genitori lavorano. Ecco, aggiungiamoci tutta la mattina, tutto il pomeriggio, tutta la giornata da soli, sono bambini di 12 anni, non è il massimo. Ecco, questo è il punto che abbiamo sollevato con il preside della scuola milanese. Adesso è il momento, il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Usciamo per un attimo dall'incubo Covid e facciamo finta di tornare ai problemi italiani normali. La produttività scadente è il primo grande male dell'economia. L'Istat ha pubblicato i dati relativi ai decenni scorsi fino al 2019. Ebbene, l'anno scorso la produttività totale dei fattori in Italia è scesa dello 0,5%, in Europa invece è salita in media dell'1,3%. È la prima volta che in Italia va sotto zero. È calata dello 0,5% la produttività del lavoro e dello 0,4% la produttività del capitale. Con il Covid naturalmente andrà peggio. Capitale umano sprecato e capitale finanziario scarso, male impiegato, e l'Italia così arretra. Va distinto però il mondo della manifattura, che ha fatto molto per l'investimento in tecnologia e innovazione, basti pensare a Industria 4.0, da quello dei servizi più tradizionali e molto meno inclini all'innovazione. A cominciare dalla pubblica amministrazione, vera zavorra competitiva del paese. Un esempio, il click day per il bonus bici era tutto digitalizzato, peccato che riproduceva online la burocrazia dell'ufficio pubblico con tanto di sala d'aspetto, numeretto e coda virtualmente chilometrica. Una piccola cosa, ma indicativa di un grande problema. È con noi adesso il professor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale a Pioltello. Buongiorno Mangiagalli. Buongiorno, grazie del professore. Ho detto professore, sì, ad onore, me glielo ho regalato ad così onore. Ad onore. No, parliamo con un medico curante, lei è un medico, classico medico di base. Allora, è partita in questi giorni una lettera di alcuni medici, tra cui anche lei, che chiedono all'AIFA di autorizzare nuovamente l'uso dell'idrossiclorochina per le cure domiciliari precoci del Covid. Sappiamo che è un tema delicato, ma insomma, ricordiamo, delicato perché adesso lo spiego, perché è un uso che è stato fatto nella prima fase della pandemia, poi sospeso dall'AIFA in base ad alcuni studi, tra cui anche Lancet, che uno di questi studi poi è stato addirittura ritirato. Adesso c'è in corso una pubblicazione di professore, in questo caso sì, Luigi Cavanna di Piacenza, in corso di pubblicazione su Nature, secondo il quale quegli studi là parlavano di pazienti ospedalizzati gravi con alto dosaggio di idrossiclorochina e quindi con effetti anche collaterali importanti. Invece l'uso che state facendo voi, che ha promosso anche il dottor Cavanna, è per pazienti precoci, basso dosaggio, con ottimi risultati. Ecco perché chiedete all'AIFA di ritornare su, su questa interpretazione. Di che tipo di cure stiamo parlando? Ce lo vuol ricordare Mangiagalli? Perché voi avete contribuito a curare un sacco di persone, no? Poi, ripeto, sul fatto della clorochina si è detto tanto, Trump, non Trump, non è un dibattito scientifico che possiamo dirimere io e lei qua ora. Assolutamente. Però voi avete un'esperienza clinica. Esatto, allora il problema è questo, la medicina, diciamo, creata nei grandi trial non appartiene quasi mai alla real medicine, cioè quella che succede sul territorio. Nella prima fase, quando avevamo malati che venivano portati via giornalmente e finivano in rianimazione per la maggior parte intubati, a un certo punto abbiamo cominciato con i nostri contatti all'interno dell'ospedale, con i colleghi infettivologi a parlare e abbiamo scoperto che in ospedale utilizzavano tutti l'idrossiclorochina in quel momento. Quindi abbiamo deciso, nostra sponte, perché bisogna anche dirlo, in quel momento nessuno ha dato qualunque tipo di suggerimento alla medicina territoriale con pazienti che aspettavano finché venivano ricoverati. Quindi noi, insieme a questi colleghi che conosciamo, abbiamo creato questo protocollo che prevedeva la somministrazione di idrossiclorochina, eparina e azitromicina. Peraltro l'abbiamo fatto in un contesto dove l'idrossiclorochina era per giunta associata anche a un antibiotico che poteva eventualmente potenziare il rischio di aritmie cardiache, quindi ci siamo esposti comunque ad un ulteriore profilo di rischio, ma il vero ma è che l'abbiamo data a pazienti in fase molto iniziale di malattia, cosa che nessuno potrà mai vedere, perché i pazienti ricoverati in ospedale, se arrivano, ci arrivano dopo giorni. Cioè gli studi di cui si riesce, come dire, ad avere un campione, su cui si riesce ad avere, diciamo, sono la possibilità, tutti di pazienti ospedalizzati. Quindi verosimilmente pazienti che non sono arrivati il primo giorno, voglio il dire, secondo giorno. Voglio dire una cosa, scusi Mangiagalli, un ascoltatore che scrive: avanti con l'idrossiclorochina, basta, non c'è nulla di scientifico in tutto questo, Burioni tutta la vita. Ma Burioni tutta la vita, ma anche Mangiagalli tutta la vita, Cavanna tutta la vita, sono tutti medici che stanno sullo stesso fronte. Guardate che allora, di scientifico, scusi, dico solo questo all'ascoltatore, ma a chi ci sta ascoltando, di scientifico c'è quello che in questo momento la scienza riesce a dire su l'idrossiclorochina. C'è una pubblicazione che dice non usatela perché ha degli effetti collaterali. Adesso è in corso di pubblicazione un'altra di Cavanna su Nature che dirà altre cose. A mano arriveremo ad una verità sempre maggiore. Ci sono altre pubblicazioni, probabilmente non di livello elevatissimo come numeri, ma che parlano di trattamenti efficaci nei grossi clorochina, che arrivano da Detroit negli Stati Uniti, arrivano dall'Arabia Saudita, con numeri tra l'altro non piccolissimi. Ma la cosa che io tengo a dire è che noi non abbiamo distribuito idrossiclorochina a pioggia, noi l'abbiamo data ad una fascia selezionata di pazienti che conosciamo molto bene perché sono i nostri pazienti di tutti i giorni, che non avevano alcun rischio cardiovascolare aggiuntivo, erano pazienti che non prendevano farmaci antiaritmici, non avevano autoinfarto, e abbiamo scelto di trattare come prima fascia i pazienti che in quel periodo finivano di più in rianimazione. Ecco, che fascia di pazienti era questa qua, Mangiagalli? Parliamo di persone che avevano febbre, che avevano già difficoltà respiratorie iniziali. Noi avevamo stabilito un criterio abbastanza rigoroso, pur non avendo fatto uno studio scientifico. Abbiamo stabilito che dovevano avere almeno la febbre e altri due o tre sintomi probanti per il Covid, che erano la tosse, che erano la difficoltà respiratoria, che erano la diarrea, che erano il vomito, che erano la cefalea. E questi pazienti che avete trattato, poi quasi tutti, non sono finiti in ospedale. Sì, i pazienti del dottor Cavanna, i pazienti del dottor Garavelli, i pazienti dei colleghi del Basso Alessandrino, dove addirittura la ASL consegnava l'idrossiclorochina a casa. Mangiagalli, facciamo così, diamoci un appuntamento tra qualche settimana, quando l'AIFA eventualmente risponderà a questo appello, farà sapere se effettivamente l'idrossiclorochina e i vostri protocolli sono ancora fuori dall'ufficialità, oppure se qualche cosa è cambiato. Io adesso non ho più tempo per andare oltre, ma avete capito che è molto interessante l'esperienza clinica di questi medici che hanno provato a curare queste persone e ci sono riusciti. Poi la verità scientifica arriverà, ma questo è un dato di fatto, non potevamo non parlarne. Giulia Crivelli tra un attimo con Effetto Mondo.